Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Rischiamo di dover andare all'estero, rischiamo quindi di far perdere all'Italia un sacco di soldi che l'Italia stessa ha investito per formarci. Ci stanno obbligando ad andare all'estero, ma noi vogliamo rimanere in Italia, perché è un nostro diritto quello di rimanere qui. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Tra le categorie più in bilico in questa Italia in crisi ci sono i giovani medici e i loro colleghi specializzandi. Negli ultimi mesi sono scesi più volte in piazza per denunciare la necessità di un maggiore finanziamento di borse e contratti. Avete appena ascoltato le voci di alcuni di loro raccolte dal web. Chiedono una sanità che riconosca il merito e valorizzi la qualità. Lo slogan: cambiare il paese per non cambiare paese. E la nostra oggi sarà una puntata dedicata proprio ai nostri medici all'estero. La frase della settimana è copyright del professor Luigi Zingales. Nei miei soggiorni italiani ho più volte toccato con mano il divario tra due Italie. C'è un'Italia di persone che fanno il proprio dovere, assumendosi la responsabilità di far funzionare un sistema inefficiente. E c'è un'altra Italia che non fa il proprio dovere, non si assume le proprie responsabilità, anzi le scarica sempre sui sottoposti. Un'Italia che si vanta dei meriti altrui e che pretende di essere ricompensata profumatamente, perfino onorata. Un'Italia pronta a mentire, a prostituire per una prebenda. Purtroppo questa seconda Italia è ben visibile nella classe dirigente, politica e non del paese, nei vertici delle imprese e della società. È questa la peggiocrazia che costringe i nostri giovani a emigrare. Così Zingales, semplicemente illuminante. E noi lo continuiamo a ripetere, l'Italia resta un paese per vecchi, lo conferma Eurostat. In Europa siamo primatisti per spesa pensionistica, che assorbe ben il 61% della spesa sociale. Alla lotta alla disoccupazione, che colpisce soprattutto i giovani, restano le briciole, solo il 3%. Speriamo che con la garanzia giovani e le ultime iniziative legislative in materia qualcosa cambi per davvero. Ci rimprovera intanto il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muizhnieks. La lotta alla disoccupazione giovanile, agli sprechi e alle inefficienze devono essere tra le priorità della politica italiana. Rincara il direttore dell'FMI, Christine Lagarde. Mi preoccupa che quasi un quarto dei giovani europei non riesca a trovare lavoro. In Italia e Portogallo più di un terzo dei giovani è disoccupato. Noi torniamo ora a parlare di giovani medici, emigrati magari oltre Alpe in un sistema pronto ad accoglierli a braccia aperte. E sentite come. Ancora prima di specializzarmi, quando in Italia avevo un pugno di mosche, mi offrono un posto da chirurgo assistente. Avevo il mio studio, i miei pazienti, la mia segretaria, delle guardie in cui ero responsabile, in cui dovevo fermare la mia volta uno specializzando, con uno stipendio, se posso permettermi, di base di 5.000 euro. Luana Ricca, 36 anni, è un chirurgo, ha lavoro in Francia. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In apertura agli ultimi dati Istat, cresce l'emigrazione dalla penisola, soprattutto degli italiani. Sempre più diplomati e laureati lasciano il paese. Parallelamente diminuisce l'immigrazione. Lo rivela il report Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente relativo al 2012. Tra gli italiani in crescita gli espatri e in calo i rientri dall'estero. Il saldo migratorio dei connazionali almeno 25 anni mostra una perdita netta di residenti pari a 32.000 unità, di cui ben 9.000 laureati. Le principali mete di destinazione dei nostri dottori restano Germania, Gran Bretagna, Svizzera e Francia, al di fuori dell'Europa, Stati Uniti e Brasile. Allo stesso tempo, nel 2012 i nuovi arrivi di immigrati in Italia sono stati 351.000, con un calo di 35.000 unità. In aumento il numero di cittadini stranieri che lasciano l'Italia. Enrico Tucci dell'Istat al microfono di Roberta Giordano. Nel 2012 si è verificato un aumento molto forte dei cittadini italiani che se ne vanno, che emigrano e vanno all'estero. Siamo passati da 50.000 a 68.000. Questo è un incremento molto forte, siamo sul 36% in più rispetto all'anno precedente. Questo dato, se visto anche in relazione a quella che è la distribuzione per titolo di studio degli italiani che vanno all'estero, che hanno un'età superiore ai 24 anni, che è abbastanza preoccupante, nel senso che poi queste persone che emigrano per un 27,6% sono laureati, quindi questo dato è in forte crescita. Oltre 20.000 connazionali sono emigrati in Australia nella biennio 2012-2013, lo rivela il rapporto Australia solo andata, superata persino la quota di connazionali emigrati negli anni 50. A settembre 18.610 italiani erano presenti in Australia, con un incremento del 116% rispetto a due anni prima. Il trend in crescita, rivela il rapporto, è sostenuto da una maggiore presenza dei titolari di visto vacanza, lavoro e studente. E nel 2012, secondo dati Corriere Economia, quasi il 10% dei laureati in ingegneria del 2007 risultava occupato all'estero. Si calcola che negli ultimi 7 anni ben 3.000 ingegneri abbiano lasciato la penisola senza farvi ritorno. Capitolo occupazione. Secondo l'Istat, in Italia tra il 2008 e il 2012 sono andati persi oltre 1.300.000 posti di lavoro tra gli under 34, di cui 389.000 al sud. Nel primo trimestre 2013 il tasso di disoccupazione giovanile si è attestato al 52% nel mezzogiorno e al 36% al centro-nord. Lo scorso anno i giovani net senza studio o lavoro hanno raggiunto i 3.327.000, mezzo milione in più in 5 anni. Boom dei net al centro-nord. Anche per la CGIL l'emergenza occupazione si estende sempre di più agli under 35, oltre 3,8 milioni quelli in difficoltà, 2 milioni sono disoccupati, scoraggiati o cassa integrati, gli altri sono precari e part-time involontari. Significativo il fatto che in difficoltà risulti sia chi ha un tasso di scolarità basso, sia chi è laureato. Intanto, segnala Banca Italia, il reddito in Italia diminuisce soprattutto per i più giovani, non per gli anziani. Tra il 2010 e il 2012 i 19-35 anni hanno visto calare il loro reddito equivalente di 15 punti, cali anche per le altre fasce di età, tranne che per gli over 64. Cultura si chiama Italians, il volume curato dall'Ambasciata d'Italia a Berlino che ha portato su carta l'esperienza espositiva di 40 giovani artisti connazionali all'interno della sede diplomatica. Un'esperienza articolatasi su 4 mostre della durata complessiva di 2 anni. Questi artisti hanno scelto Berlino quale città per vivere e lavorare. Federico Pietrella, 40 anni, è pittore. Italians ha documentato gli artisti che negli ultimi anni si sono trasferiti qua. Gente, perché hanno scelto Berlino? Perché Berlino personalmente permette una semplicità di vita quotidiana. C'è anche un humus artistico che invoglia questi artisti italiani a vivere e lavorare a Berlino? Sicuramente. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a varcare le Alpi, rotta verso Parigi, una delle città che hanno maggiormente accolto negli ultimi anni i giovani professionisti italiani, anche nel settore medico, come vedremo. Nome? Luana. Cognome? Rita. Età? 36 anni. Città di origine? Catania. Studi? Laurea in medicina, poi specializzazione in chirurgia generale. Anno in cui hai lasciato l'Italia? 2005. Per andare dove? In Francia. Perché? Per avere la formazione specialistica indispensabile. Quale lavoro svolge attualmente? Il chirurgo. Dove? Nel primo centro francese di chirurgia epatobiliare e trapianti di fegato. Tornerai? Voglio tornare per motivi familiari. Grido di un cervello in esilio. In Italia attualmente non ho alcuna possibilità di svolgere il lavoro che so fare. Sebbene abbia effettuato oltre 1500 interventi chirurgici, abbia scritto su riviste mediche internazionali e parli 3 lingue straniere. Luana, proprio da quel grido è partita pochi mesi fa la tua denuncia a giovanitalenti@radio24.it sullo spreco di capitale umano che l'Italia fa anche nel settore medico. E noi vogliamo dare al tuo grido ancora più eco in una domanda: perché l'Italia esilia i suoi figli migliori? Diciamo che l'esilio è un esilio obbligato, almeno inizialmente, da parte di quei figli migliori che sono delusi e che spatriano alla ricerca di migliorarsi, di trovare migliori condizioni di formazione, ricerca, prospettive di lavoro. La tua storia inizia tra i banchi di scuola in quei mitici anni 80 e 90, quando la politica, scrivi tu, dispensava baby pensioni e impieghi pubblici in cambio della fedeltà elettorale. Ti immaginavi un grande avvenire, eppure secondo te proprio in quegli anni l'Italia stava ponendo le basi del suo fallimento attuale? Assolutamente sì, per almeno 2 motivi. Il principale, lo spreco di risorse da parte della classe politica, che dava impieghi in esubero per ricambiare il favore elettorale a fronte di uno scarsissimo investimento pubblico a favore dei giovani in termini di scuola, università, ricerca, sviluppo. Poi ci sarebbe da parlare del sistema pensionistico, che ha fatto indebitare i genitori con i loro stessi figli, ma questo esula dal tema di oggi. Catanese di origine, il tuo percorso di studi è segnato dall'eccellenza, massimi voti alla maturità, borsa di studio per merito e iscrizione alla facoltà di medicina a Roma. Quale passione ti porta in sala operatoria? La voglia di fare un mestiere carico di responsabilità, con un forte impatto umano e con un riscontro diretto ogni giorno di quello che fai. Ti laurea tempo record, 5 anni, 110 lode a 24 anni. Se dovessi però dare tu un voto all'università italiana? L'università mi ha assicurato una buona preparazione che è stata riconosciuta all'estero, però l'università italiana è totalmente insufficiente presente nel suo ruolo di tramite tra i giovani e il mondo del lavoro. E col senno di poi è meglio volarsene a studiare direttamente all'estero, secondo te? Ah sì. Sì, ma il prima possibile e senza voltarsi più indietro verso l'Italia. E come per tutti i tuoi colleghi medici, comincia a questo punto il percorso all'interno delle scuole di specializzazione. I tuoi risultati ti spalancano le porte, vieni selezionata in 4 atenei. 7 anni fa ti specializzi col massimo dei voti, 70-70. Proprio in quegli anni comincia anche il tuo confronto con l'estero. Stage in Inghilterra, Spagna e Francia. Ma allora, quale drammatica verità emerge con i mesi? Mi rendo conto durante gli stage che all'estero il medico in formazione aveva una sua dignità e che i professori, quelli che dovevano assicurare la formazione, avevano il piacere di trasmettere questa conoscenza, che le responsabilità erano delegate presto durante la formazione, quello che riesce a garantire la crescita professionale dei giovani medici. In Italia il problema è complesso, tutto questo non è possibile perché c'è un esubero di medici in generale, di chirurghi in particolare. Giovani talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Luana Ricca, 36enne medico-chirurgo al lavoro in Francia. Storia di una professionista capace di primeggiare negli studi e con un'esperienza straordinaria alle spalle in sala operatoria. Ma l'Italia non la rivuole. Qui comandano solo i baroni e i loro fedelissimi. Riprendiamo allora l'ascolto della sua storia. Giovani Talenti. Nel 2005 lasci famiglia, fidanzato e amici per trasferirti in Francia. Dove e quale ambiente soprattutto trovi ad accoglierti? Sono andata a Parigi in un ospedale universitario, non c'era nessun tappeto rosso ad attendermi e lavorando una media di 80-100 ore a settimana, il mio capo di allora francese ha apprezzato lo sforzo fisico e linguistico e quindi è diventato per me un maestro sia di chirurgia, di metodo, di vita, insomma. Questo per dire quanto sia complicato, sia difficile farsi strada all'estero. In Francia vieni così apprezzata che una volta conclusa la specializzazione fanno di tutto per non farti tornare a casa. Cosa ti offrono? Ancora prima di specializzarmi, quando in Italia avevo un pugno di mosche, mi offrono un posto da chirurgo assistente, un posto universitario, avevo il mio studio, i miei pazienti, la mia segretaria, area delle guardie in cui ero responsabile, in cui dovevo fermare a mia volta uno specializzando, con uno stipendio, se posso permettermi, di base di 5.000 euro. Inimmaginabile in Italia. Inimmaginabile, ci tengo a sottolinearlo. Prima di restare oltre Alpe, però, hai fatto qualche tentativo di ricerca in Italia e se sì, con quali risultati? Sapevo già che le prospettive erano nulle, non ho avuto il tempo di fare tentativi perché il posto mi è stato offerto ancora prima di specializzarmi. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Oggi, dopo 8 anni di esilio professionale, sono specializzata in chirurgia epatobiliare, faccio parte dell'equipe del primo centro francese, posso eseguire autonomamente importanti interventi su fegato, vie biliari, pancreas e trapianti, riassumi. Per questo devi soprattutto ringraziare un paese come la Francia, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Tutto questo però a prezzo di quali enormi sacrifici personali? Dal punto di vista personale, 8 anni di solitudine, di cena in solitudine la sera, un rapporto col mio fidanzato che mi è restato accanto per telefono, un pendolarismo aereo, ci vedevamo una volta al mese, insomma sacrifici immensi. E da circa un anno hai ripreso anche per questo a cercare lavoro in Italia, candidandoti ai pochissimi concorsi pubblici, questo anche dopo la nascita di tuo figlio. Al proposito, ci ha inviato un'illuminante tabella che proviamo a riassumere: 14 candidature inviate e per quanti concorsi hanno fissato una data di esame e quanti posti mediamente sono a disposizione in Italia? Dei 14 concorsi in cui mi sono candidata, la data è stata pubblicata per 7, ci sono alcuni per cui attendo da più di un anno, sì, senza nessuna comunicazione diretta. E in generale sui 14-10 bandivano un solo posto, il che vuol dire che il posto è già assegnato a qualcuno. Cioè il nome era già scritto, prestampato sul bando, potremmo dire. Questa è l'Italia. A parte la sconcertante e arretrata modalità di invio dei documenti di candidatura degna di un paese da terzo mondo, vogliamo parlare anche di come si svolgono normalmente quelle che dovrebbero essere le prove pratiche nei concorsi da chirurgo in Italia? In alcuni centri permettono di inviare tramite PEC, ma poi ti chiedono di fare una doppia procedura online, il che è delirante. Però per quanto riguarda la prova pratica, che è la cosa più piccante, diciamo, il bando recita che si dovrebbero accertare le tecniche e le manualità peculiari della disciplina. Poi in realtà che cosa viene fatto? Un'interrogazione orale sulla tecnica chirurgica, quindi queste manualità tecniche non vengono accertate e tutto questo viene giustificato nel bando stesso da una formula che dice che la prova si può svolgere comunque con altre modalità a giudizio insindacabile della commissione. Insomma sì, alla fine decidono loro facendosi beffe, come dire, delle più elementari regole di competizione in un concorso. All'estero, in Francia, una cosa del genere sarebbe concepibile? No, assolutamente no. Tu una porta secondaria di riavvicinamento all'Italia l'hai trovata, hai vinto un dottorato di ricerca in oncologia che svolgi in cotutela con la Francia. Però fa male leggere quanto scrivi. Vado mendicando in Italia per i reparti che dicono di fare la chirurgia in cui mi sono specializzata. E ancora più male fa ascoltare le risposte che ti danno questi nostri luminari, che in un mondo perfetto forse dovrebbero venire a lezione da te. Quali sono le risposte tipo? Mi dicono che c'è un esubero di medici, che non ci sono soldi, che non si può assumere, che vorrebbero loro mandare le persone all'estero e quindi non vedono perché io dovrei rientrare, che intanto non loro ci stanno, i loro ragazzi. Intanto loro però rimangono in Italia. Luana, loro, sì. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta a cui ripartire? Guarda, allora l'Italia dall'estero la vedo come caos, precarietà, incertezza nell'avvenire. La proposta concreta, bisognerebbe razionalizzare le risorse. Meno poltrone, cioè meno primari che costano tantissimo, meno chirurghi, paradossalmente contro il mio interesse, ma i chirurghi sono tanti perché lavorano tra il pubblico e il privato. Bisogna scegliere o pubblico o privato. E poi sicuramente ottimizzare la forza lavoro degli specializzandi. E ci raggiunge ora in linea Gabriella Pittau, anche lei medico chirurgo a Parigi, con una storia di tentativo di rientro in Italia alle spalle. Andato purtroppo male. Buon pomeriggio. Buonasera. Gabriella, in Italia il sacrificio e il merito non pagano, scrive Luana al termine della lettera che ci ha inviato. Condividi, sulla base anche della tua esperienza, questa drammatica considerazione? Assolutamente sì. In Italia penso che l'unica cosa che paghi è la costanza nel stare accanto ai primari professori facendo più che altri portaborse nella speranza di un posto fisso. Questo, che poi in realtà non significa assolutamente saper svolgere il mestiere. Questo sta diventando un paese di portaborse, Gabriella. In breve la tua storia, anche per te, di studi in medicina a Roma con una tesi in chirurgia, poi la specializzazione in chirurgia generale, e sorprende vedere che anche tu, esattamente come Luana, ti rendi conto che in Italia la formazione è insufficiente. Gabriella, perché il nostro paese non è più all'avanguardia per un giovane chirurgo? Penso che il problema è che in Italia che nessuno si ponga effettivamente il problema del ricambio generazionale. I chirurghi che operano nella maggior parte dei casi sono dei chirurghi anziani, se non vecchi, nel senso non cambia il modo di pensare, non cambia il modo di lavorare. Si dovrebbe investire nei giovani e cercare di portarli avanti, nel senso di mandare dei giovani specializzanti, motivati, all'estero, far ritornare, dandogli però effettivamente un posto di lavoro e poterli Ti fermo lavorare perché come, questa come è anche la tua storia in qualche modo. Il posto in Francia lo trovi da sola, a Prodi e Leone, nel reparto di chirurgia epatobiliare, dove in un anno di specializzanda hai avuto responsabilità che in Italia, dici, neanche colleghi di 40 anni hanno. Finiti gli studi riparti di corsa per Lione, dove la tua carriera prende il volo. Nel 2009 però la decisione di tornare in Italia. Cosa ti spinge a questo passo? Due cose. La prima è una motivazione simile a quella di Luana, nel senso avvicinarmi soprattutto alla mia famiglia di origine, perché io, grazie a cielo, mio marito ce l'ho accanto. La seconda è comunque il sogno di portare in Italia tutte le cose che ho imparato in Francia. Un posto lo vince a Cagliari, dove si era aperto un avviso pubblico nel centro trapianti. Tutto perfetto, almeno in apparenza, ma il ritorno a casa ti riserva presto amare sorprese. Fin dai primi giorni in ospedale mi resi conto delle difficoltà nello svolgere il mio lavoro. Scrivi, cosa non andava? Assenza totale di professionalità da parte di molti colleghi. Erano 12 chirurghi circa strutturati per un servizio di 18 letti, di cui soltanto 3 o 4 facevano, erano in grado di fare il loro mestiere. Il resto erano comunque dei medici che erano pagati dallo Stato, che lavoravano 6 ore al giorno e che da una parte non erano capaci di trattare il paziente, per cui mettevano a rischio il paziente, e dall'altra gettavano cattiva luce sul servizio e quindi sugli altri colleghi, perché non avevano le competenze necessarie per poter effettuare il chirurgo. Infatti, Gabriella, la cosa che più mi ha sorpreso leggendo la lettera che ci ha inviato è la arretratezza italiana nel settore medico, specchio di un paese fuori dai circuiti innovativi. La medicina che trovai era una medicina difensiva, finalizzata non a curare il paziente ma ad evitare denunce. Le novità venivano viste come un pericolo dai colleghi più anziani, totalmente incompetenti, ci scrivi. Allora, è un problema di ricambio generazionale e cambio radicale di modelli quello che blocca l'Italia? Sì, assolutamente. La maggior parte dei chirurghi che operano in Italia sono dei chirurghi vecchi, che raramente sono andati all'estero. E un giovane che viene dall'estero, che porta le novità, è visto in maniera... Ma non dovrebbe funzionare così, è pazzesco, ci rendiamo conto. Ma in Francia una cosa del genere sarebbe tollerabile? Assolutamente no. Ringrazio Gabriella Pittau, ti faccio tanti auguri, in bocca al lupo per la tua carriera in Francia. Grazie, crepi. E domanda di rito per Luana Ricca: quale consiglio daresti a un giovane giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? A un coetaneo formato, diciamo come me, con una formazione valida, di andarsene e andare in Europa, in quei paesi che hanno bisogno. Ci sono dei paesi che hanno bisogno, la Francia adesso magari un po' meno, ma l'Inghilterra, paesi scandinavi, è una bella sfida. I medici in formazione, se vogliono fare una buona formazione, di andare via dall'Italia prima di cominciare la formazione e quindi chiudere la porta dell'Italia e non voltarsi più indietro. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Quinto appuntamento con Andata e Ritorno, la rubrica che ci tiene compagnia ogni primo sabato del mese con due esperti di emigrazione e di controesodo. Apriamo anche una rapida parentesi per notare come persino una nota compagnia aerea abbia fatto del tema della circolazione dei talenti lo slogan della sua nuova campagna pubblicitaria. Cervelli, fuggite e tornate con noi, questo è il claim. Oggi l'andata di Aldo Mencaraglia si concentra su come trovare alloggio all'estero, magari dopo aver firmato un contratto di lavoro. Non è un dettaglio da poco, credetemi. Trovare sistemazione all'estero può a volte essere più difficile che trovare lavoro. In alcune città la richiesta di alloggio di qualità è spesso superiore a quello che il mercato offre, mentre in altre nazioni la burocrazia legata all'affitto rende la ricerca di un appartamento o anche di una semplice stanza in condivisione un'avventura estenuante. Innanzitutto è sconsigliatissimo firmare un contratto di affitto prima di vedere la sistemazione di persona. Non fatelo quando siete ancora in Italia, perché rischiate poi di arrivare a destinazione e constatare che le foto che avete visto su internet non corrispondono molto alla realtà. Come fare quindi? Iniziate a fare ricerca su Google già dall'Italia. Cercate frasi come ad esempio affitto più la vostra futura città, ovviamente nella lingua della nazione di destinazione. Questo tipo di ricerca vi fornirà informazioni su alcuni aspetti importanti. Innanzitutto, se ci sia un'abbondanza o meno di un certo tipo di alloggio nella vostra destinazione e quindi quanto sarà dura trovarlo. In secondo luogo, quali sono i prezzi per il tipo di sistemazione che state cercando. Riuscirete così a costruire un budget più preciso. E infine, se ci sono agenzie immobiliari o siti web tematici che vi risparmieranno tempo e vi forniranno moltissime informazioni. Il passo seguente è quello di capire, se non conoscete già le destinazioni, quali sono i migliori quartieri e le migliori zone nelle quali risiedere. Usate conoscenze sia online che offline per trovare qualcuno che vive, ha vissuto oppure conosce il posto relativamente bene in modo da ricevere consigli. Dopodiché prenotate un ostello o un albergo per alcuni giorni durante i quali andrete a visitare di persona gli appartamenti o le camere che avete selezionato. Siate flessibili e preparatevi ad imprevisti. Tutte le info su www.italiansinfuga.com, email italiansinfuga@gmail.com. E nel ritorno di Lorenzo Pompei vi elenchiamo le prime offerte di lavoro per professionisti italiani alla ricerca di un rientro nella penisola, offerte presenti sul sito La Fonderia dei Talenti. Aguzzate allora le orecchie. Questo mese per La Fonderia dei Talenti volevo segnalare le prime richieste di collaborazione che sono apparse sul portale. Quindi nell'ordine, la prima è della Strategic Management Partners di Milano, che cerca dei collaboratori per supportare le aziende italiane nell'internazionalizzazione. Sono una società di consulenza. La seconda, la Springer Verlag, che cerca collaborazioni con freelancer in ambito di medical writing e cerca degli stagiaire per progetti digitali. Infine concludo con la Doxé, una società di una SPA di Modena, che cerca per le proprie sedi sia in Italia che all'estero, tra cui segnalo San Diego, Praga, Bratislava, degli esperti in IT e marketing, ed è questa una società di data management, document production e tracking di documenti. Quindi queste qua sono le prime offerte che stiamo vedendo arrivare sul sito della Fonderia. Siamo agli inizi, però pensiamo nei prossimi mesi di ricevere maggiori interessi da parte delle aziende. Ricordo che questi annunci che ho menzionato sono particolarmente rivolti a coloro che vivono all'estero per il tipo di profilo richiesto, e infine rammento agli ascoltatori che è possibile sempre gratuitamente iscriversi in qualsiasi momento sul sito della Fonderia caricando il proprio curriculum e effettuare una ricerca sulla mappa direttamente di ricerche di aziende che ho appena menzionato. Tutte le info su www.lafonderia.org, email info@lafonderia.org. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche nel gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. E aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti, la stringa del mese è Potere agli espatriati. Dibattetene in 140 caratteri.